Allora iniziamo la nostra serata. Ringrazio intanto la società Dante Alighieri, che è rappresentata qui stasera da molti soci, ma in particolare dalla presidente, la professoressa Raffaella De Rosa, con cui abbiamo iniziato un percorso nel 2025, una collaborazione felice dove la biblioteca si fa sostegno, diciamo, in un certo senso divulgatrice anche di quelle che sono le attività di una società come quella della Dante Alighieri, che è tanto radicata anche nella nostra città e che tanto è vivace e diciamo che costruisce legami, ponti e soprattutto tante iniziative promuovendo la lettura ma anche la scrittura. E infatti quest'anno in novembre abbiamo avuto il piacere di vedere realizzato un sogno, che è quello di un premio letterario. Questa sera abbiamo anche il piacere poi di avere con noi come ospite il dottor Rielli, che appunto ci presenterà il libro La storia continua, ed è una storia molto interessante e accattivante, ma che è anche il frutto di un legame affettivo che si protrae nel tempo. Abbiamo con noi in questo percorso stasera Valentina Cibin, che ci ha già aiutato anche in occasione del premio Claudio Augusto, è stato il suo battesimo, programmista regista della sede Rai Alto Adige. E vi ringrazio di essere qui con noi, rinnovo l'invito anche ad ascoltare le nostre precedenti iniziative attraverso il podcast che viene pubblicato sul nostro sito e soprattutto di tornare anche nelle prossime occasioni, perché ogni settimana, il martedì e il mercoledì, noi organizziamo qualcosa. Ma cedo la parola intanto alla presidente Raffaella De Rosa e vi auguro una piacevole serata. Grazie. Grazie Valeria, grazie mille. È così, è iniziata questa collaborazione e sta uscendo la seconda edizione del nostro premio letterario, il concorso, in cui ringrazio tante persone che vedo qui che sono stati i nostri lettori e che spero lo vogliano rifare anche quest'anno, e ringrazio Valeria che da quest'anno è nella giuria, quindi sì, esce il bando col tuo nome, quindi una grande entrata, e ci sarà anche l'università quest'anno, quindi siamo proprio molto contenti, ma soprattutto sono molto contenta di presentare il dottor Michele Rielli, che è un socio Dante da tantissimi anni. Da quanti anni sei socio? Da più di 10. Io sono entrata che lui c'era già, quindi dantista, amante proprio di Dante, sa tanti passaggi a memoria e lo invidio tantissimo, una memoria incredibile. Ce li declama, ce li recita tante volte, lo ascoltiamo con passione. Scrive sulla rivista della Dante, noi abbiamo una rivista in cui c'è una parte dedicata proprio a lui, a Dante, sulle terzine dantesche, e ci pubblica veramente articoli molto interessanti, di questo lo ringrazio molto. Poi è un personaggio nell'ambiente culturale associativo bolzanino, perché è presente e racconta queste narrazioni che fa, sono veramente molto interessanti. Nel suo libro La storia continua c'è proprio, direi, un patto intergenerazionale, dal nonno che scriveva a lui, c'è anche il figlio che è un grande scrittore, quindi proprio una famiglia importante. Ringrazio Valentina Cibin della RAI, allora buon lavoro, grazie. Eccoci, siamo arrivati a questa sera e io ho l'onore di presentare questo libro del dottor Rielli, La storia continua, l'abbiamo già detto. Io appunto, come si diceva, sono Valentina Cibin e sono felice di essere qui stasera. Ha ben detto, è un patto intergenerazionale, e mentre lo leggevo, anche io, per insomma deliziarmi di una piacevole lettura ma anche di una riflessione, ho proprio capito, e poi ci siamo confrontati, qual è poi l'obiettivo che scopriremo anche noi questa sera. Noi vi cercheremo di trasmettere la magia di questo libro, che è scritto con due facciate, che è una cosa molto interessante. Da una parte c'è la scrittura originale trascritta in salentino del padre Luigi, sulla parte destra c'è poi la traduzione, poi c'è sempre un commento del dottor Rielli. Noi faremo un piccolo assaggio, poi alla fine chi vuole potrà fare delle domande al dottor Rielli. Allora, io comincerei, abbiamo già detto qualcosina su questo libro, diciamo che in linea di massima è un diario di guerra, è un diario di guerra che parte dal 1942 con una chiamata alle armi un po' tardiva, come si scrive nel libro, quando il nostro protagonista aveva 35 anni, una figlia e un'altra figlia. in arrivo, quindi arriva questa chiamata alle armi per cui deve lasciare la sua terra, Salento e Calimera, e quindi da lì parte tutto. E io direi, dottor Rielli, che iniziamo spiegando il motivo per cui lei ha deciso ad un certo punto di tirare fuori questi scritti che sono stati per anni lì e aspettavano un momento preciso. Grazie Valentina, grazie, benvenuti a tutti, buonasera, benvenuti grazie per essere venuti, spero che il vostro tempo sarà impiegato in un modo utile. Allora, era da molto tempo che io pensavo di, diciamo così, rendere in italiano corretto questo diario di mio papà, di mio padre. Mio padre è nato nel 1907 ed è morto nel 2003. Io sono nato nel 1946, dopo la guerra. Per molto tempo sapevo che c'era, noi avevamo questo diario, però a me non è mai venuta in mente l'idea che ci fosse qualcosa di importante. Lo sottovalutavo perché pensavo, dico, mio padre, lo so, era un agricoltore, come diciamo così, preparazione letteraria, aveva la terza elementare presa da privatista, cos'è che possa aver scritto? Ma dopo poi sono successe delle cose per cui ci ho ripensato. La cosa che mi ha spinto definitivamente, due sono state le cose che mi hanno spinto a fare questo libro. Primo, il fatto che sono andato in pensione nel 2010, noi medici siamo molto impegnati, chiaramente, come tutti i medici, sia quelli ospedalieri che non ospedalieri, e non avevo tempo tra il lavoro e la famiglia di, insomma, darmi da fare per quest'opera. E quindi, una volta andato in pensione, dico, beh, qui adesso devo farlo. Mi sono messo a farlo nel 2015, però è successo che, arrivato a un certo punto, il computer mi ha cancellato tutto, è uscito fuori una specie di ebraico e ho detto, ho buttato via tutto, basta, non se ne parla più. Poi nel 2022 è successa la guerra in Ucraina. E allora io mi sono fatto la domanda, vuoi vedere che dopo tanto tempo di pace ci ricaschiamo, che la storia continua? E allora dico, adesso lo devo fare. Poi ho avuto un sogno che è scritto nel libro che mi ha determinato a farlo. Allora, questo libro, come è stato detto da Valentina, è un libro importante che viene da lontano. Viene da lontano come tempo, 1943, 42, 43, 44, 45, geograficamente da Salento, che dista da qui 1100 chilometri. Quindi diciamo che questo è già un aspetto importante per la gente di Bolzano. Poi, l'altro aspetto importante è che in questo libro ci sono tre generazioni: c'è mio padre che l'ha scritto, io che l'ho adattato, e mio figlio che è Daniele Rielli, che diciamo fa di professione lo scrittore, che gli ha fatto l'editing e anche ha fatto una piccola osservazione finale, una postfazione. Allora il primo problema era quello di rendere questo libro fruibile. Adesso, poi, però, c'è una cosa strana, perché delle volte nella vita succedono delle cose strane che sembrano così, che succedono così per dire, però effettivamente forse non è così. Allora, mio padre si mette a scrivere il suo libro, nella sua, che adesso io ve lo leggo la prima pagina, l'incipit. Miei cari amici lettori, voi pensate se uno ha la pretesa di avere dei lettori. Dico, ma qua scherziamo. Eppure lui dice... Miei cari amici lettori, vi invito ad accostarvi a me vicino. Questa è la roba, questa qui è sulla sinistra, fate finta che è latino, no? O greco, qui c'è l'italiano dall'altra parte, come tradotto da me. Allora, dice, a me vicino, ed insieme osserviamo il quadro della vita dove senz'altro lo riscontriamo di pene e dolori. È da osservare che il dolore, col suo moto segreto, sopravvive e verbo, trasformandosi in un dolore cupo e insopportabile, riuscendo a invadere un cuore umano, infiltrandosi anche nel sonno, così sopravvalcando ogni minima gioia. La prova giusta la descriverò io qui sotto questa tenda misera, posta in un angolo del campo di concentramento, dove vengo in questo a meditare il giorno quando, trovandomi in campagna e lavoravo, così facendo guadagnavo il pane, e questo facendo parte della mia piccola famigliola che tanto amavo, quando certe donne, passando dalla strada vicina, mormoravano che nell'ufficio postale erano giunte delle cartelle di richiamo, e che fra le quali era anche la mia. Fin da questo momento si può costruire su questa piccola storia quanto mi costa di verità e di amarezza. Era il 7 dicembre 1942 quando un avviso mi chiamò soldato. Questo è l'inizio del libro. Lui effettivamente scriveva bene come grafia scriveva bene, meglio di un medico, scriveva. Come grafia scriveva bene, perché come sintassi lascia desiderare. Però come grafia, insomma, si difendeva bene, ha fatto il suo diario, ecco. Ha fatto le pagine tutte ordinate, no? Tutte belle ordinate, poi chi prende il libro le vede, questa è la prima pagina. Ok, e allora praticamente così si è aperto il libro e ci racconta. Lui viene, va a Monopoli, c'è stato il concentramento della truppa, va a Monopoli, lì viene assegnato al 225esimo reggimento di fanteria. Lui era un mitragliere e aveva la Breda 37 che si faceva a Milano, era un'arma che si faceva a Milano. Lui era un mitragliere, ecco, questo è la sua destinazione. E dopo sentiamo questo, vuole chiedere la Valentina. No, io la lascio perché per me è veramente affascinante, e la cosa importante che volevo questa sera per voi fosse anche che il dottor Rielli leggesse la lingua, diciamo, in cui veniva scritto questo diario, perché è importante, secondo me rende di più leggerlo in lingua originale. Poi noi abbiamo la fortuna di avere la traduzione vicina, però poi vedremo anche certi inglesismi fanno capire proprio l'ambientazione dell'epoca, come poi anche i soldati hanno cercato di farsi andare bene certi adattamenti linguistici per farsi capire, vero? Però noi arriviamo un po' a quello che è il cuore di questo libro, che racconta la guerra da un punto di vista particolare, soprattutto una guerra che a mio avviso non è la guerra che tutti noi ci immaginiamo, perché spesso si vede anche nei film queste guerre incredibili, ma tanto incredibile questa guerra non era. E come dicevamo fin dalle prime pagine, poi non so se vuole deliziarci, si capisce che anche la partenza, l'arrivo e appunto proprio la battaglia che si vede descritta poi nel libro mostra che in realtà l'esercito italiano non era poi così preparato. L'esercito italiano era messo molto male. Voi sapete che questa guerra non andava fatta, l'Italia non era preparata, gli italiani, tanti italiani non la volevano, non andava assolutamente fatta. L'Italia era impreparata, parole, ma fatti non ce n'erano. Allora il primo Natale del 42, appena arrivato a Monopoli, sono andati in chiesa, i soldati li hanno portati in chiesa. Poi quando sono usciti, ritornando inquadrati al castello, a Monopoli c'è un castello e lì li avevano acquartierati i soldati, ritornando inquadrati al castello trovammo un movimento nelle camerate. Vi era un maggiore al quale nel corridoio ci inquadrarono e lui si mise di fronte e ci disse... Allora, apro una parentesi, il dialetto, a differenza della lingua, è una forma diretta. Noi sappiamo che tutti i dialetti hanno il pregio di essere diretti, vanno alla sostanza delle cose, senza tanti, diciamo così, geroglifici intorno, come diceva Cicerone, ma se qua. No, qui si va a diretto. Si mise di fronte e ci disse: voi oggi siete tutti tristi perché è Natale, mentre io il primo Natale lo passai in Grecia, combattendo, e dopo mi morì la moglie, e io non pensai, ma pensavo alla patria. E voi pensate alle vostre famiglie, ma dovete dimenticarlo questo. Ma la vostra famiglia è la patria, al quale, se occorre, dobbiamo morire. Non mancarono dietro queste parole di rimprovero diverse faccia di un simile colore ricoperto di un'amarezza. Suonò l'attenti, al quale lo dovettimo salutare, e se ne andò. E se ne andò vuol dire va fuori dai piedi, e se ne andò. Ha scritto tutto unito, e se ne andò. Perché gli ha ricordato, guardate che voi potete morire per questo qui. E quindi insomma si comincia a pensare alla possibile morte. Comunque mio padre ebbe la fortuna di avere un permesso per andare a trovare la sua famiglia prima che si spostasse da Monopoli, perché o li mandavano, era previsto che li avrebbero mandati in Grecia, poi non è successo così, ma andavano in Sicilia, dopo sono andati in Sicilia. Comunque prima di partire da Monopoli ha avuto un permesso e ha preso il treno, la tradotta, è andato da Monopoli a Lecce. Arrivato a mezzanotte, a Lecce non c'era nessun mezzo di trasporto, è andato a piedi. A mezzanotte da Lecce a Calimera, 16 km a piedi. Allora è arrivato a casa e lui dice: Erano le 4 del mattino di Capodanno 43, quando m'avvicinai vicino la soglia di mia casa e al quale con una mano leggermente bussai. Quando due voci risposero quasi di un tratto: chi è? Io allora risposi, e come la porta si aprì, ecco che siamo ai momenti che sono necessari registrare in questa storia. In questa storia, lui scrive la storia con due R. Storia, la mia donna con in braccio la mia piccola mi aprirono dove le due mi abbracciarono. Ma noi tutti sappiamo che le ore di gioia passano presto, al quale per quei due giorni fui festa e poi mi licenziai ritornando a destinazione. Tornò di nuovo a Monopoli. Poi a un certo punto, tornato a Monopoli, lui pensava di poter, è tornato un'altra volta a dire il vero, e poi dopo c'è stata la partenza in Sicilia. Non andavano in Grecia, ma in Sicilia. E c'è una situazione particolare poi arrivando in Sicilia, perché lui si aspettava. Poi vediamo cosa succede in Sicilia. Chissà che cosa. Ma io vi voglio leggere come lui ha visto la partenza, come lui ha visto la partenza da Monopoli. Era il 18 febbraio la mattina, quando tutti inquadrati e carichi di armi e bacaglio siamo andati per la stazione. Lì è una salita, c'è una piccola salita. Passando per la città dove la folla ci salutava, e parte piangevano, specie le mamme, mogli e bimbi dei partenti. Io guardavo, ma invano, guardavo per vedere se c'era qualcuno dei suoi. Ma nel largo della stazione ci fermammo, al quale un colonnello a noi disse: andate voi della classe 1907, che siete vecchi, 35 anni. Mio papà era tra i più vecchi, no? Dei soldati, erano ragazzini gli altri, 20, 25 anni. Andate, è il momento che la patria ne ha bisogno di tutti i suoi figli. Finito il discorso, suonò l'attenti, presentammo le armi e poi per squadra siamo usciti su per la stazione dove una lunga tradotta ci attendeva. E dopo saliti vidi, mio padre osservava, senti, dopo saliti sulla tradotta, vidi che il capotreno faceva forza di far partire la tradotta. Era la tradotta scassata, faceva a partire. Comunque a un certo punto si è accesa col fumo. Ecco che fischia, il momento è indimenticabile. Donne che mettevano bambini di tenera età nei sportelli a poter abbracciare ancora una volta il babbo partente. Altri che nel seno della mamma con un piccolo straccio bianco che segnava l'addio ai loro cari. Io ricordo che piangeva in un angolo seduto la mia famiglia, lontana. Guardavo quei bimbi che col fazzoletto facevano segno dell'addio. Ecco che la tradotta fischia e poi mano a mano si allontanava, lasciando, sentite questo passaggio che è, questo passaggio qua è bellissimo, lasciando tante nuvole di fumo sui cuori rimasti nel più cupo dolore delle mamme, moglie e bimbi. Questa, diciamo così, ha saputo cogliere. Ecco, poi a un certo punto sono partiti sferragliando, sono arrivati a Reggio Calabria. Io adesso vi racconto, poi il libro dovete prendere lo stesso, perché è bello tenerlo, non è? Se non vi dico tutto non lo prendete. Dunque, e allora quando sono arrivati a Reggio Calabria, lì hanno avuto anche incursioni aeree, no? Durante. Allora sono andati al porto e c'era il ferryboat, no? Ferryboat. Allora mio padre, che non sapeva scrivere, non aveva con l'inglese, no? Allora siamo saliti sul farabotto. Farabotto, e in 35 minuti siamo andati da Reggio Calabria a Messina. La povera Messina, dice. Poi a un certo punto arrivano a destinazione in Sicilia, dove dovevano fermarsi. Arrivo a Gela, perché lo sbarco degli americani era previsto a Gela. C'è la rada di Gela, no? Ampia rada. Finito l'allarme, ripreso, qui stanno viaggiando col treno, a Catania hanno avuto un attacco aereo, finito l'allarme a Catania. Ripresimo la corsa e arrivammo alle ore 3 del mattino del giorno 22 febbraio, normalmente era febbraio, a Gela, provincia di Caltanissetta. Qui arrivati rimasimo per le strade fino a sera, senza alloggio. Quando a sera ci fecero entrare in una locanda come le bestie. Anzi, le bestie hanno la paglia e noi a terra. In questa maniera passammo la notte e l'altra presso. questa è la grande organizzazione dell'esercito, manco le brande per far stendere i soldati. E passa questo periodo, in questo periodo di preparazione, diciamo, di preparativi, c'è, come dicevamo con Valentina, una cosa che risalta. Cos'è che risalta, abbiamo visto, ed è soprattutto la fame. Questi qui non avevano da mangiare. Questi poveri soldati non avevano da mangiare. Mangiavano le carrubbe. Mangiavano le carrubbe. A un certo punto, quando c'erano i ragazzi che andavano giovani, si sono andati a chiedere il pane ai siciliani, ai fornai siciliani, insomma hanno provato la fame in quel periodo. Però c'era praticamente l'ordine militare, bisognava fare la marcia, ogni giorno in preparazione della guerra, dovevano fare la marcia ovviamente, no? Per essere pronti. E tornavano al campo a mezzogiorno, si mettevano vicino alla cucina, perché gli davano il rancio. Però prima di mangiare dovevano cantare la canzone del re. E se non la cantavano bene, niente rancio. Cioè, intelligenza veramente sopraffina delle forze militari. Poi a un certo punto ha avuto un problema con un pantalone. Questa è una storia molto divertente, ascoltate. Non parliamo dal vestire. Un giorno mi si strapparono i pantaloni, per rattopparli non potevo. Allora glielo dissi al comandante. La compagnia, vi ricordo che la compagnia è formata da 150 a 200 uomini. Lui era la quarta compagnia del 225 reggimento di fanteria. Per rattopparli non potevo. Allora glielo disse al comandante, la compagnia, che tengo i pantaloni rotti e che mi ci vorrebbe una riparazione. Quando lui mi rispose, Rielli, cerca di aggiustarli tu. Gli rispose, signor tenente, mi manca lo straccio, e mi disse, aranciati. Poi soggiunse, bello questo verbo, soggiunse, comandante, metti una pezza di coperta. Allora avevano la coperta di dotazione. Allora lui scrive, sempre ai lettori suoi, che questa è una roba che mi fa un po' sorridere, no? Eppure lui parla, senti, dice, dovete poi sapere voi che mi ascoltate dopo tanti anni, 80 anni, che se avevo veramente tagliata la coperta, lui stesso dopo me l'aveva indebitata. Allora non sapevo come fare. Conosceva bene le strutture italiane mio padre, le conosceva, perché si dice degli agricoltori, ma gli agricoltori non è mica stupido, perché sanno, l'agricoltore è sempre a contatto con la terra non dice mica bugie, perché se dice bugie dopo la paghi subito, non è questione, cioè lui sapeva. Allora non sapevo come fare, pensavo di tirare la fotera dalle tasche dei pantaloni, ed era debole, allora pensai di mettere un pezzo delle pezze dei piedi, le pezze intorno agli scarponi. E così feci. Era da guardarmi quando uscivo in libera uscita con quello straccio bianco sul setere. Qui trovava anche, diciamo così, un angolo. Poi a un certo punto, andando avanti, qua di là, allora poi sono stati spostati a Niscemi, che adesso è diventata, lui poi li hanno acquartierati a Niscemi, perché si vede che lo sbarco ancora non era arrivato, e poi dopo sono tornati di nuovo, quando poi è arrivata la guerra, sono tornati di nuovo verso Gela. A un certo punto la guerra si presenta, qui sono tutti, lui racconta altre storie dei preparativi, eccetera, eccetera, poi a un certo punto arriva la guerra. La guerra in Sicilia. Era il giorno 10 luglio del 43, verso le ore 2, dopo la mezzanotte, quando ci vidimo svegliati dal capitano comandante la compagnia, era la quarta compagnia, come diceva, al quale non sapevamo di che cosa si trattasse, solo vidimo che in un'altra stanza chiamava a rapporto segreto i graduati. Non sapevamo ancora di che si parlava. Finito il rapporto, tornarono i capisquadra e dissero sveglia, sveglia, e tutti ci svegliamo. Non eravamo ancora vestiti. Arrivarono due sottotenenti e il maggiore di un'altra compagnia al quale ci dissero, ragazzi, prendete le armi e il solo zainetto e le bombe a mano che avete in consegna e i mitraglieri prendono ognuno la propria arma. Di altra roba non c'è necessità prenderla, perché si tratta di una manovra notturna e niente più. Una manovra notturna e niente più. E invece non era una manovra notturna. Invece dovevano andare, e adesso vi dico questa frase qui, poi andiamo avanti. Per la città di Niscemi, ecco che adesso è diventata attuale, per la città di Niscemi era un forte rumore di macchine, e questa è parte di carri armati, e parte di carri armati che andavano verso Gela. E a Gela succede un momento, diciamo il momento, potremmo definirlo clou di questo. Il più importante, ma anche il più triste forse per il padre, che ebbe anche una perdita di un compagno importante che condivideva con lui questa esperienza. E questa battaglia è l'emblema, direi, dell'impreparazione dell'esercito italiano, e il padre Luigi descrive molto bene qual era l'aria che tirava durante. Infatti noi eravamo tutti in rica di fuori quando sono usciti, no? Alzatevi ragazzi, alle 3 di notte, no? Eravamo in rica di fuori quando arrivò il nostro ottimo capitano, al quale ci disse ragazzi, se è di bisogno saperlo, che il nemico è sceso a Gela. Sono i nostri amici americani, è sceso a Gela e ha già invasa la città. Noi, sentite cosa dice il capitano, noi col nostro coraggio oggi stesso lo dobbiamo respingere. E mio padre dice, noi lo immaginavamo, ma non eravamo mai visto cosa significa nemico e cacciarlo via, o meglio respingerlo. E come facciamo? Cioè, questa era la preparazione che avevano. Arriva la guerra e gli americani dalle navi con le loro armi, le schegge, arrivavano proiettili da tutte le parti. E allora loro si sono stesi nella pianura di Gela, erano lì sti militari, stando insieme, erano lì stesi per terra, stando insieme con l'amico. Lui aveva l'amico Niccoli Francesco, che era di Lecce, ed era il suo armiere, aveva la scatoletta di ferro con i proiettili per la mitragliatrice. Stando insieme con l'amico piangeva il cuore vedere che in mezzo a tanto fuoco, perché era d'estate, 10 luglio, c'era il grano in parte falciato, in parte no, appena arrivavano i proiettili veniva fuoco dappertutto. E lui dice, in mezzo a tanto fuoco, dico fuoco, perché a dove cascavano le granate delle artiglierie nemiche, non solo lo scoppio, ma attaccava immediatamente il fuoco al grano o alla restuccia. La restuccia sono i resti, no, del grano quando viene. Di modo che dove ti giravi era fuoco. Il capitano gridava, avanti, avanti, è meglio che ci avviciniamo sotto al nemico, così perde la precisione. Carponi per terra si camminava, ma dove? Non si vedeva nessuno, solo che i proiettili che arrivavano da tutte le parti. Cioè loro nemici non ne hanno visti, solo proiettili che arrivavano da tutte le parti. Allora mio padre aveva la mitragliatrice stesa per terra e il suo amico era lì, a fianco. Io davanti con la Breda 37 e l'amico con la cassetta portante munizione. Mi era sempre vicino. Quando arrivava una scheggia e lo divise dalla spalla, mi cascò vicino. Allora, noi, nel nostro dialetto, la spalla non è la spalla, ma è la colonna lombare. Non si sa perché. Ma si dice, ho dolore alla spalla. Dice, no, la spalla è forte. E quindi arrivava la scheggia, l'ha tagliata a metà. Questo suono. Mi era sempre vicino. Quando arrivava una scheggia e lo divise dalla spalla a metà, mi cascò vicino. Rimasi straziato di dolore, ma per un po', stando a terra, non capivo più nulla. Cosa fare? Mi avvicinai e rimasi a guardarlo. Però non ero capace di baciarlo allora, dato che il capitano gridò, ragazzi, chi si salva, si salva. Allora lasciai per terra, morto, il mio unico compagno e piangendo ritornavo indietro. Questo qui è stato, poi ci sono stati altri morti, eccetera, che poi nel libro è tutto scritto. Quindi no, loro non hanno potuto fare nessuna resistenza, mio padre non ha potuto neanche sparare un colpo, tanto mi ha detto che poi quando li hanno presi, adesso vi racconto qua più avanti, la resa della compagnia subito il giorno dopo, giorno 11 luglio, dalla parte nostra non potevamo far nulla, che già eravamo incerchiati, dove un americano insieme a uno dei nostri ci avvertivano di arrenderci. Così tutti uscemmo per la strada, dove ci portarono in compagnia col fucile mitragliatore. Allora avevano il fucile gli americani e li spostavano, sì, militari ormai. A un punto dove ci riunimmo in 2000. E mentre eravamo così, fummo circondati da 4 apparecchi italiani e tedeschi, ma dietro le forti antiaeree americane fummo salvi. Allora, furono attaccati dagli italiani e tedeschi, no? Che erano nemici degli americani, loro stessi, ma comunque gli americani li hanno portati via, li hanno sbaragliati con le antiaeree. Poi sentite, questa è bella, eh? Questa qui è molto caratteristica, quello che si fa per dire, ma è interessante. Allora, li presero, e mio padre mi ha detto che quando l'hanno preso, lui ha tolto l'otturatore dalla breda prima di consegnare. Dice, così almeno non sparano contro di noi. Dice, almeno non sparano contro di noi. Allora, così va bene. Poi ci portarono al porto di Gela, dove verso le ore 5 del vespro vidimo che ci fecero un'importante rivista. Li hanno controllati gli americani e levavano orologi e soldi. Ma io che ero indietro e vedevo questo, senza che nessuno se ne accorgesse, me lo messi nella fascia, il mio orologio, e lo salvai. Allora lui aveva la fascia militare qua, no? Lo mise nella fascia, tanto è vero che io l'ho avuto fino a un anno fa. Era un orologio che aveva una carica di 7 giorni, una carica durava 7 giorni. Era un bello orologio, poi a un certo punto non è più andato. Poi finita la rivista, sentite come vanno alla nave questi, Finita la rivista ci mesero per 4 e ci fecero entrare tutti vestiti a mare, facendoli fare quasi 200 metri per raggiungere una nave che era ferma. E prima di aggiungerla, gli era molta acqua e i più bassi si erano quasi annegati, se no che si appoggiavano sulle spalle dei più alti. Hanno fatto appunto un abbordaggio a terra, pedestre, a piedi. Insomma, se pensiamo a Trump adesso, non c'è molta differenza, voglio dire, questi li hanno fatti entrare così, tanto se qualcuno moriva, arrivava i carabinieri a casa, suo figlio è morto in guerra, non è che è morto affogato, perché la guerra è questo. Saliti, sentite questa, saliti sulla nave, ci passeggiavano nel porto di Gela, ci passeggiavano per 6 ore in mezzo alle navi carriche di munizioni. E dopo partiamo per Tunisi, qui vidi Malta più Pantelleria. E allora andarono in Tunisia, li portarono in Tunisia e lì cominciò la sua prigionia, perché in sostanza questo libro, più che libro di guerra, è libro di prigionia. La guerra è durata molto poco, 1 giorno e mezzo, la prigionia 3 anni. Allora lo portarono in Tunisia, poi da Tunisia in Algeria, e poi dopo è stato un anno, qui poi racconta le vicende della sua prigionia, le descrive nei vari campi di concentramento, e dopo, passato un anno, dopo lo imbarcarono e portarono in Inghilterra. E lì arrivò in Inghilterra esattamente un anno meno un giorno dopo il 9 luglio, l'8 luglio del 44, un anno dopo che era stato preso a Gela. E qui racconta poi le vicende di Londra. Però prima di questo vi devo dire anche due cose importanti. Allora, qui abbiamo visto la resa della compagnia, no? Poi c'è la resa dell'Italia, perché dopo questa vicenda gli americani entrarono a Gela, no? Occupando la Sicilia, poi c'erano gli inglesi che arrivarono da altre zone, praticamente successe il 25 luglio, cade il fascismo, no? E quindi praticamente l'Italia si era sgretolata, e quindi c'è stata la resa incondizionata dell'8 settembre del 43. Allora, stando così l'Italia, qui parla di fame. Allora diceva, mio padre dice, altri lavoravano alla stazione, altri prigionieri lavoravano alla stazione, e quando ritornavano raccontavano che erano avuto regalato del pane dai soldati inglesi, e quindi tutti volevano andare a lavorare lì per avere il pane. Stando così l'Italia si è resa nemico. Allora lui dice, stando così l'Italia, per la fame, ma non solo la fame, ma la disorganizzazione dell'esercito completa, si è resa nemico. Così, ritornando dal lavoro, perché lui faceva parte dei collaboratori, mio papà, lavorava per gli inglesi, e poi gli davano qualcosa, no? Un po' di soldi, lui poi comprava quello che gli serviva. E così, ritornando dal lavoro, un movimento si vedeva dove un maresciallo inglese, comandante del campo, salito sopra un tavolo, ci lo parlò che l'Italia era fatta la resa incondizionata. Certi gritarono vigliacco il re, adesso sono i soliti italiani divisi, no? Senti. Certi gritarono vigliacco il re, altri vigliacco Mussolini, altri incominciarono a tirarsi pietre dove certi furono feriti. E come poi al telco televisivo, stessa roba, no? Cambia niente. Cioè, qui erano pietre e qui parlo come pietre, uso le parole, no? Le parole sono pietre. Non cambia lo scenario, solo che lì era più tragica. Ma presto prese parte la pulizia. La pulizia, e tutti rientrammo nelle tende in silenzio. Poi in Algeria, qui è ancora in Africa, in Africa settentrionale, ha detto: guarda, l'Italia si è arresa, anche ai prigionieri, l'Italia si è arresa, resa incondizionata, eccetera. E naturalmente dice mio padre: noi eravamo tristi perché avevamo perso la guerra, chiaramente. E qui invece racconta un evento favorevole, gli è successo a proposito della fame, che loro avevano sempre fame, non stavano neanche in piedi in questi campi, avevano poco da dargli da mangiare. E lui a un certo punto ha visto da lontano un camion da cui veniva fuori, un camion vicino a una cucina inglese, veniva fuori del fumo. Allora dice: adesso vado di là, adesso, se io pensa, se io là mi recava, certo che l'avevano qualche cosa di darmi, se fosse un po' di avanzo, ma intanto non si poteva allontanare. Dice: no, io non mi posso allontanare, però vado lo stesso, tanto se mi prendono cosa mi possono fare, peggio di così non è che. Allora si decise, allora non mi mancò una risoluzione, e ripresi una campagna attraverso un campo e andò dove c'era sta cucina inglese. Come mi videro certi soldati inglesi, inglesi scrive, invece di dire con la G, con la C, ma mi piaceva così perché lui usava dei. A che punto siamo come ora? Ci siamo. Certi soldati inglesi mi guardavano, dove uno mi domandò di che cosa andavo in cerca, e le raccontai che cercavo qualcosa da mangiare. Lui non mi capiva e mi condusse in una tenda dove era un colonnello e altri ufficiali, ma neanche questi capivano cosa andavo in cerca. Ma il fatto volle. Che giunse un soldato che mi capiva al meglio e dopo me li raccontò agli ufficiali che cercava da mangiare, e il colonnello disse di domandarmi cosa volevo e gli dissi che ero mandato di altri miei compagni. Qui ha avuto la furbizia mio padre di dire che era mandato dagli altri, invece non è vero, lui ha avuto lui l'idea. Poi ha avuto in mente, cioè adesso dico che mi hanno mandato anche gli altri, magari ottengo qualcosa. E gli dissi che ero mandato di altri miei compagni, cioè, l'ambasciatore lo porta bene, dice: non se la prendono con me perché ci sono anche gli altri. E questo è forte. Gli altri miei compagni, perciò, se potevo portargli anche a loro qualche cosa. Allora mi portarono in una stanza piena di viveri, pensa a te, morti di fame, che gli davano i fagioli, un po' di acqua, no? Con una pagnotta in 6-7. Mi portarono, cosa significa la guerra? Ma che c'è gente che parla di guerra, li prudono le mani, che oggi parla di guerra, ma se noi avessimo una guerra, voi credete che sarebbe diversa? Noi credete che noi non patiremmo la fame? Altro che fame. Allora mi portarono alla stanza e dandomi un sacco vuoto, dissero di prendere quello che voglio. E ricordo che non sapevo regolarmi, allora presi o 6 o 7 pagnotte d'un chilo, per ciascheduna, ed era per andarmene, no? Era per andarmene. Dopo ringraziato il portinaio, lui non è che va così, ma ringrazia, no? Giustamente. Allora, senti, allora fatta una 70 metri, mi vidi chiamare: Johnny, come back, questo è internazionale, come back è bellissima, no? Come back, mi disse di tornare indietro, lui ha capito però cosa significava, come back, tornare indietro. Allora presi paura, sospettando che ero preso molto pane, non mi mancò un battere forte, forte nel cuore e un colore pallido. Ma entrando nella stanza dei viveri, poggiò il sacco per terra, dove vide un capitano al quale disse se voleva altra roba. E proprio lui, accortasi che non lo capiva, mi prese il sacco e me lo riempì di pane e di più 5 chili di formaggio. Il sacco pesava circa una trentina di chili e ricordo che lo guardavo e pensavo che non ero capace di portare quel peso, data la mia debolezza, per tanta strada dove l'ufficiale già se ne accorgeva della mia idea e diede ordine di farmi portare sopra al posto di lavoro con la sua macchina. Allora senti, oh, che improvvisata quando mi videro scendere di sulla macchina con un sacco. Allora lì si avvicinò alla sentinella, chiese cosa è successo con questo qua che arriva col sacco, dice no, è stato il colonnello. Tutti erano presenti. Allora fa, l'autista gli raccontò che ero andato al di là chiedendo un po' di viveri e avevo fame, che il colonnello, trovandosi per combinazione, gli ha voluto dare un sacco di pane e formaggio, facendo pane agli altri. Tutti erano presenti quando io facevo le razioni e così diviso anche il formaggio lo mangiamo tutti insieme come tanti fratelli. E il domani volevano mandarmi ancora i compagni, poi dopo li hanno spostati di campo. Dottor Rielli, io direi che magari riassumiamo la permanenza in Inghilterra, perché il tempo a nostra disposizione, allora, a certo punto poi, sta finendo. A certo punto sì, dobbiamo stringere. Dopo l'imbarcano e li portano a Londra, cioè arrivano a Liverpool, e lui quando sono arrivati, allora è una banda scozzese, è arrivata la banda scozzese per accoglierli, no? Allora lui dice, siamo andati in Scozia. Allora lui credeva di essere arrivato in Scozia, però non era così, era arrivato a Liverpool, ma lui non lo poteva sapere. Questo poi, ecco, perché lui ha visto questi scozzesi che li hanno accolti quando sono arrivati a Liverpool. Oramai eravamo rassegnati, ormai avevano avuto anche una tempesta, volevano scendere dalla nave e con certa contentezza scendevamo mettendo piede sulla terra scozzese, lui dice, dove dopo 2 ore fummo portati in una magnifica stazione e qui arrivati una musica ci attendeva vestita con giacchetta e beretto e poi per pantaloni indossava una veste nera tutta impiechettata con calze di tonna e scarpini. Ed erano gli scozzesi. Allora lui ha descritto appunto scalze di tonna e scarpini. Allora dice siamo arrivati in Scozia. No, era arrivati a Liverpool. E poi dopo la portata a Londra. A Londra lui ha corso parecchi pericoli perché arrivavano le V1 e le V2. Lì sono morti tantissimi a Londra, civili e anche prigionieri sono morti. E lui insomma descrive anche queste bombe che arrivarono, eccetera. Poi c'è un passaggio bello che voglio leggere, poi dopo quando leggete il libro ve lo gusterete ancora. Ma questo qui, lui lavorava, no? E allora una sera stava tornando a casa, al campo, lui aveva il pass, non come il nostro Green Pass, lui aveva il pass, però non c'era molta differenza tra il suo pass e il nostro pass quando c'era il Covid, anche noi eravamo prigionieri, ricordiamolo sempre questo, perché non si ripeta. Una sera mentre si ritornava con la macchina da lavoro, con gli altri suoi prigionieri, si ritornava, arrivati sulla crocevia a Londra, sono arrivati sull'incrocio, allora lui scrive crocevia, cioè perché nel dialetto crocevia. Dovettimo fermarsi perché il teschio segnava rosso, il teschio era il semaforo. E lui dice, il teschio segnava rosso. E partì di successe a pochissima distanza sulla nostra strada lo scoppio di una bomba, arrivò una V1 che tante macchine colpì, come così 2 autobussi carichi di gente, non più uno sterminio di palazzi, e il numero delle vittime era tanto. Sempre penso che se il teschio non avrebbe segnataci la fermata, era toccata anche a noi la stessa sorte. Grazie al nostro Signore e alla nostra Madonna Maria Santissima che ci scampava la vita. Poi un altro aspetto che c'è in questo libro è la fede di mio padre, che è notevole. Dunque, a che punto siamo? Ma io forse mi soffermerei brevemente sulla fede prima di finire, perché una cosa che mi ha colpito parecchio, che così magari fa una pausa, è proprio questa fede e il credere che ci sia qualcosa sopra, anche spesso, che ci fosse qualcosa che proteggesse, no? Luigi, anche come si diceva, ha più volte rischiato la morte, ma in qualche modo per qualche forza al di sopra di lui gli era stata risparmiata, e poi lui pregava sempre la Madonna per avere la salvezza e riuscire a sopravvivere a questi periodi. Dal libro si legge, c'è una cosa che si legge molto, è la sofferenza. La Madonna addolorata, lui aveva sempre una maginetta, la Madonna addolorata, sempre sopra. E lui era convinto, insomma lì poi entriamo nell'opinabile, no? Chiaro che entriamo nell'opinabile, però la mia opinione, diciamo, io sono molto vicino alle idee di mio padre sotto questo aspetto. Penso tutte cose, diciamo così, che non si possono dimostrare, no? Però, diciamo così, non si possono neanche escludere. Voglio dire, c'è sempre qualcosa, un mistero aleggia su di noi. Per esempio, tanto per farla breve, io dico un rigo solo, come faceva Dante Alighieri, con un rigo solo. Allora noi, quando nasce un bambino è un mistero, allora dici, quando nasce un bambino gli dici, ma da dove sta venendo? Cioè, chi è che ti ha fatto così, queste manine, queste ditine? Com'è che è successo? Dimmi un po' com'è che è successo. C'è qualcuno che te lo spiega? Ah, ma anche la testa, le orecchie. Com'è che? Da dove vieni? Viene dal mistero. Ah, ma tu mi hai descritto quando hai fatto le ecografie. Sì, ti ho descritto, però non sai mica com'è che mi sono formato. Non sai mica perché mi sono formato. E questo è il concetto. Quindi viene dal mistero e nel mistero va. Quando uno defunge, nella bara, va, chiude. Si chiude, va nell'infinito, nel silenzio. Allora a un certo punto tra questi due poli deve esserci qualcosa nell'intermezzo, no? E quindi durante la vita di ciascuno di noi, certamente noi lo sappiamo, chiunque di noi lo sa, che succedono delle cose che noi non ci spieghiamo, delle coincidenze, delle combinazioni. Per dire perché per esempio è successo questo? È successo. Combinazioni positive, condizioni negative, però è successo. C'è il mistero che aleggia su di noi, questo qui. E lui, mio padre, lui non aveva studiato filosofia, neanche teologia per dire, no? Però lui aveva l'intuizione, la conoscenza intuitiva, no? Lui diceva che effettivamente lui credeva, era convinto che la Madonna lo salvava. E in effetti, diciamo così, in molte occasioni leggendo il libro vedete che lui effettivamente poteva essere così. E anche nella fine del libro, quando lui poi effettivamente, dopo tanto tempo che aspettava, soffrendo anche le notizie, la famosa poi lettera anche di congedo che è arrivata, si è fatta aspettare. Allora lui, ecco, adesso vi racconto ancora una volta come è nato questo libro, come è nato il suo diario. Allora, due parole. A Londra, c'è una data, a Londra, 20 aprile del 45, nascita del racconto. Allora l'hanno spostato di campo, un altro campo di concentramento. Quando in questo altro campo aggiunsi, insieme ad altri 20, fummo divisi e ricapitai a dormire con gente sconosciuta. Allora, siccome non conosceva questa gente qui, siccome non sapeva cosa fare, allora ha pensato di organizzare il suo racconto. Dove? Qui, per mezzo di una candela, questa tenda, a Londra, e appoggiandomi sopra una piccola cassetta, in compagnia di una povera penna, sotto una tenda, metto su questo misero quaderno il riassunto più importante, copiandolo, dalle pagine e di pezzi di carta che potevo trovare nei campi di concentramento che ho vissuto. O in altri casi così scriveva e queste pagine ho sempre raccolto, così scriveva, in altri casi così scriveva, e queste pagine le ho sempre raccolte e ora le ho registrate al meglio qui a Londra, 20 aprile 45. Da questo punto poi, quello che succede da aprile in poi, sono i mesi in cui aspettavano il congedo, perché in maggio c'è stata la pace, eccetera, però da maggio è arrivato fino a dicembre. Allora poi il giorno tanto atteso, avviso di rimpatrio, eccolo qua, giorno 15 di dicembre, qui lo metto nella mia traduzione, del 45, giorno 15, a sera ritornando dal lavoro, trovai un movimento in camerata, era il rimpatrio per noi della classe 1907, scappai all'ordine del giorno e lì vidi finalmente il mio nome, come posso ora far capire ai lettori e dargli con i lettori, e insiste, insiste. Lo sapeva già. Incredibile. Ai lettori che gioia che mi fu in quel momento. Al domani, giorno 16, ci messimo in partenza e poi dopo partirono con le navi. E poi arrivarono a Taranto il 30 dicembre. Finalmente al giorno 30 vidimo la costa italiana. Ora vorrei parlarvi del momento desiderato da 3 anni. Ricordo che era ora di rancio, ma nessuno scese, ma bensì tutti di aspettare il punto dove la nave ci sbarcava. Già entrammo nel porto di Taranto, lo vidimo dalle barchette che ci venivano incontro. Poi verso le ore 10 dello stesso giorno ci sbarcarono. Allora a un certo punto io adesso, prima di chiudere, perché siamo quasi, voglio leggervi, allora vi dico, questo libro come è fatto, avete capito, allora l'originale a forte, poi alla fine di ogni capitolo, che sono 6 capitoli, io metto un mio commento in cui faccio le mie osservazioni, magari quando si dice arrivo a Sucarossa, cioè voi non può esistere una città che si chiama Sucarossa, ma era Sucaras, cioè è una cittadina algerina che ci dice Sucarossa, no? Allora scrivo quelle cose insomma, completare anche dal punto di vista geografico, eccetera. E poi alla fine io ho voluto scrivere un capitolo, l'ho fatto di sana pianta io, che è il nostro dopoguerra, il 7° capitolo, che per me è, secondo me è anche interessante da leggere, perché insomma ci fa capire tante cose. Noi eravamo tutti in difficoltà, comunque mio padre è tornato, quando è tornato ha avuto il dolore di aver perso il padre Michele, e che lui li scriveva durante la prigionia, era preoccupato per suo padre, e purtroppo per 15 giorni non l'ha visto, perché lui è arrivato il 30 dicembre e lui è morto il 17 dicembre del 45, è morto, quando è arrivato non l'ha visto. Comunque dopo sono nato io, dopo 9 mesi, quindi la storia continua. Voglio dire che questa guerra, questo evento per mio padre, questo è stato segnato a fuoco dalla guerra, perché poi gli ha modificato il carattere. Allora noi siamo diventati una famiglia numerosa, avevamo 6 figli, 5 donne e io maschietto, e quindi 6 figli, insomma, portati avanti. Se adesso lo dicessimo a uno, portato avanti 6 figli, dice, ma tu stai venendo da Marte? Cioè, voglio dire. Ma erano altri tempi, i figli facevano anche loro, lavoravano, si davano da fare e non avevano tante pretese. Comunque il nostro padre ci ha, come dire, quando noi eravamo in campagna, a lui ci ricordava, diceva Giovanni, Giovanni, Giovanni, Caman, Giovanni, e ci raccontava degli inglesi, sempre questo Giovanni, Join, Join, e per lui era Giovanni. E poi diceva Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, e poi anche giusto quasi quasi, no? Lucky, sta attento, Lucky, Lucky, Lucky. E ci faceva per farci ridere, noi eravamo ragazzini. Comunque, qui ho scritto. Allora lui a un certo punto aveva trovato la felicità. Allora sappiamo, noi tutti quanti da molti anni ormai cerchiamo la felicità, no? Si dice l'eudaimonia, la felicità, spendendo, spandendo, facendo i turisti, comprando, andando in ristorante, insomma cerchiamo la felicità, il benessere, il welfare. Allora il ritmo suggerito silenziosamente da mio padre a tutta la famiglia era quello circolare. Noi avevamo la fortuna di avere delle campagne, non tante, poche, 2-3 ettari, poi affittava per altre colture, ma avevamo un po' di terra. E avevamo la fortuna perché avevamo poi la possibilità di confrontarci con la terra, perché lì c'è la verità, no? La terra c'è la verità. Il ritmo suggerito silenziosamente da mio padre a tutta la famiglia era quello circolare meridiano delle stagioni, incardinato tra cielo e terra, orientato a portare a termine le varie colture che venivano puntualmente a maturazione col clima mediterraneo ancora non stravolto dal riscaldamento globale. Allora, questo era in tutta l'Italia, no? L'Italia del dopoguerra era l'Italia agricola, no? E noi, per esempio, a casa mia, no? Non spendevamo mai un soldo per comprare un panino, mai. Avevamo il nostro pane, avevamo tutte le cose da mangiare, noi non spendevamo niente. Adesso saremmo morti di fame come tutti, perché se noi adesso non avessimo i soldi morivamo di fame, ma veramente di fame, letteralmente. Se si fermassero i camion sull'A22 che portano da mangiare, cosa faremmo noi? Moriremmo di fame, veramente. Invece noi lì non morivamo di fame, perché avevamo la terra. Partiva presto al mattino col suo carro agricolo munito di regolare targhetta rettangolare e numero progressivo all'attacco della stanga destra, la targa. Aveva una mula marrone. Quando noi dormivamo ancora e tornava a casa all'imbrunire, nei campi lavorava sempre, in piena libertà. E lì, come diceva, stava la sua felicità. Basta. Dice, felicità. Più di una volta ho cercato di capire in cosa consistesse questa sua felicità, dal momento che non faceva altro che lavorare, da mattino a sera, nei campi, ogni giorno, escluse le festività, che lui andava sempre a messa, era molto religioso, come avete capito. E escluse le festività, che talora però usava per alcune ore per fare dei sopralluoghi nei campi allo scopo di organizzare il programma lavorativo per la settimana successiva. Questo lui non era un contadino, perché il contadino ha un conte, no? Ha il conte, tu lavori nella tenuta del conte. E invece, diciamo così, lui era libero professionista, possiamo dire, cioè un agricoltore, e lui organizzava il suo lavoro. Ma ora che io mi ponevo la domanda, ma dove sta la felicità? Ho scritto sul libro, ma ora che sono avanti con gli anni, io questo libro l'ho adattato a 76 anni di età, a 76 anni, nel 22, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Adesso viaggio sull'80esimo, siamo andati avanti, sono del 46 quindi. Ma ora che sono avanti con gli anni, in un mondo che ribolle di costose cose inutili, questo libro andrebbe letto da tutti, dagli adulti, ma anche dai giovani. Costose cose inutili, forse comincio a capirlo. L'esperienza della guerra e della prigionia, l'aver visto la morte in faccia e l'aver vissuto per lunghi mesi ingabbiato nei reticolati dei campi di concentramento, sono state esperienze che hanno lasciato in lui una traccia indelebile. Nella sua mente sarà persistita a lungo la memoria di quello che accadeva alla fine di ogni spostamento, quando era in Algeria. Tu ne sei sempre spostato da un campo di concentramento all'altro per esigenze loro, ovviamente. E che egli ha fedelmente riportato nel suo racconto è la frase che lui, una frase che ha scritto, che è proprio molto, molto, molto forte. E ci condussero ai reticolati. E ci condussero ai reticolati. Dove vi condussero? Ai reticolati. Dentro nella gabbia. Dovete stare nella gabbia. Avete perso la libertà. Ecco, questo praticamente poi è quello che lui l'ha condizionato, che poi dopo a noi ha insegnato, diciamo così, a noi ha insegnato col suo esempio, insomma, anche a difendere questa libertà e a lavorare. Ecco, questo è. Mi pare che ho detto abbastanza. Ce n'è abbastanza per poterlo leggere, mi pare. Prima di concludere, fate pure un applauso, perché è giusto, se lo merita. Io però ho una domanda per il dottor Rielli. Ma quindi, secondo lei, la storia continua? Allora, la storia continua? Cosa dite voi? Allora, la storia continua perché la storia continua sempre. Cioè, dopo che succedono i disastri, la storia continua sempre, la storia continua. Però, continua ancora una storia di guerra? Vogliamo veramente provare a vedere ancora com'è? Vogliamo veramente diventare ancora forzuti e cercare di fare la guerra? Allora, la guerra porta, abbiamo visto da questo libro e anche da altri, fame, miseria, morte e distruzione. Questo porta alla guerra, non porta altro. Allora, se io per esempio volessi essere più pratico, come più pratico e come dire legato alla realtà, se l'Italia non abbiamo in Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, anche perché noi, insomma, la guerra è difficile, sappiamo fare, noi siamo sempre disuniti, abbiamo sempre traditori, noi è difficile che non riusciamo a fare una guerra come va fatta, tanto per cominciare. Giustamente nella Costituzione c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra, certo che la ripudia, perché ha preso tante quelle bastonate che non è il caso di andare a prendere delle altre. Però resta il fatto che comunque noi, se ci attaccano, dobbiamo difenderci, su questo non c'è dubbio, cioè se un popolo straniero viene ad attaccarci, noi dobbiamo difenderci, ma quella non è una guerra di aggressione, ma di difesa. Però se no, se stiamo tranquilli, è meglio che stiamo tranquilli. Allora, la storia continua. Allora, la storia continua sicuramente. Noi speriamo però che questa storia di guerra non continui. Adesso sapete che noi siamo in momenti decisivi. Pare, perché poi dopo passa la buriana e non abbiamo concluso niente. Se per caso si ferma, questo è. Speriamo, ecco. Adesso, se c'è qualcuno, no? Questa esatto, se ci fosse qualcuno che avesse delle domande per il dottor Rielli, credo che c'è Camilla con il microfono, vero? Ecco. Io ho avuto il piacere di leggere un altro diario di guerra scritto dal dottor Gisberto Neri, tuo collega però Torino Langhoriatra di Merano, non so se l'hai mai conosciuto. Come si chiamava? Gisberto Neri di Merano. E lui si trovava in Croazia come medico e non aderì alla Repubblica di Salò e fu portato in Germania. Quindi tuo papà alla fin fine è stato fortunato. Sì, mio papà è stato fortunato. Ho letto quel diario lì, poi l'ho presentato, ho scritto un articolo, una cosa terrificante. Cioè, il diario di tuo papà è bellissimo. Ti posso dire che io frequento Stromboli e leggo le chat, non è che scrivono tanto meglio, 80 anni dopo. Quindi tuo papà era bravissimo. Era letterato. Era bravissimo. Aveva la terza elementare presa da privato. Eccezionale, cioè, se pensi, con la terza elementare scrivere e avere delle riflessioni di questo genere, che anche se naturalmente la sintassi è quella che è, però si capisce. Si capisce. Che, che era uno scrittore, sostanzialmente. Sì. Ma l'ha scritto man mano che succedevano i fatti o poi alla fine... Alla fine, lui dice, il 20 aprile del 45, l'ha diciamo così, organizzato la parte più importante fino all'aprile del 45. Dall'aprile del 45 in poi l'ha scritto ogni 2-3 mesi, perché dopo, diciamo così, dopo che è stata arrivata, cioè c'è stata la pace nel maggio del 45, allora gli eventi sono stati più radi, no? Più radi, e allora lì lui faceva ogni 15 giorni, scriveva, e l'ha scritto sì, quando lui è arrivato, e poi dopo l'ultima pagina l'ha scritta a Calimera quando era già tornato. Però diciamo la parte importante l'ha scritta proprio mentre... A mano che succede. Sì, sì, in effetti io sono d'accordo, cioè che lui alla fine è stato fortunato perché almeno gli è andato da mangiare, cioè voglio dire, almeno, a proposito di questo vi racconto... Aveva la Madonna addolorata. Sì, lui aveva la Madonna, però adesso poi vi dico un'altra cosa, che poi c'è anche nel libro. Questo non è nel racconto, ma me l'ha detto lui. Lui poi c'era c'era un cappellano, che era molto amico del cappellano, che era un irlandese, non lo mette sul libro, ma me l'aveva detto. E poi mi ha detto un altro episodio, l'elogio della patata, cioè della patata, ortaggio ovviamente. Allora a un certo punto è successo a Londra che i prigionieri erano stufi di mangiare patate, perché gli davano sempre da mangiare patate. D'altra parte, cosa potevano dare da mangiare durante la guerra? Più che patate, no? Allora a un certo punto cominciava a lamentarsi che insomma sempre patate, che siamo stufi di mangiare sempre patate. Allora il capo lì, il responsabile del campo inglese, ha sentito queste lamentele. A un certo punto ha fatto la donata, li ha chiamati tutti al centro del campo, è salito su un tavolo. Allora lui, che parlava un po' l'italiano, questo me lo raccontava mio padre, no? Ho sentito che vi sono lamentele verso le patate. Ma voi non sapete l'importanza nutritiva delle patate. Le patate le potete fare lesse, le patate le potete fare arrosto, le potete fare in mille modi. Aveva ragione. Non voglio più sentire qualcosa di contro le patate. Allora a un certo punto lui, poi io ho messo questa nota nel mio commento. Certo, cosa poteva dire? Patate abbiamo, o mangiate quelle. Però ha fatto, per dire, anche un episodio di colore. Sì, è stato fortunato perché... Poi lui insomma, lavorava, no? A Londra, perché lì non so come era successo, c'erano quelli che collaboravano, perché lui, una volta si è scritto anche nel libro, lui si è trovato a Londra che è arrivato una V1, le sirene, e lui era solo, e tutti gli inglesi sono andati nel rifugio, no? E lui era fuori, e si è messo dietro un albero, allora c'è stato un inglese e gli fa... Join, come. Allora dice, vieni anche tu, vieni dentro nel rifugio, no? E l'ha fatto entrare. Quando è entrato dentro c'erano altri inglesi che lo guardavano male, dice, questo è un italiano, questo qua è un nemico che ci ha fatto la guerra, perché l'avete fatto entrare? E lui stava in un angolo, non voleva dar fastidio. Poi quando sono usciti, cessato l'allarme, allora poi mio padre si è avvicinato a uno l'aveva difeso, quello che l'aveva detto, vieni dentro. Poi ha detto, io dice, Le ha detto: io non sono fascista, io sono soldato del re, e gli ha fatto vedere la carta d'identità col re, no? Le ha fatto vedere. Allora lui dice, è rimasto molto contento, dice che era un soldato del re, e voleva, allora voleva, gli ho offerto il caffè, voleva dare dei soldi, dice no, dice i soldi non ho bisogno, no, ce l'ho, non ho bisogno. Quindi per dire che poi dopo alla fine le guerre poi a livello della gente si riducono poi in questi rapporti insomma, tra le persone, che le persone l'ultima cosa che vogliono è quella lì. Se pensiamo ai nostri soldati quando sono in Russia, la disfatta di Nikolaevka, che li hanno salvati i contadini russi, molti ancora lo ricordo, l'hanno scritto, e quindi livella un po', per fortuna. Speriamo che comunque, come hai detto tu, la storia continui, ma in un'altra maniera. Ma in un'altra maniera, non con le guerre, non con le guerre, perché effettivamente è comunque diciamo così, la secondo me una cosa che ci sono diverse cose perfettibili, come sempre, nessuno ha la verità, noi abbiamo verità parziali, ma un ragazzo o una ragazza che possa leggere questo libro, se ha la pazienza di leggerlo, potrebbe capire sostanzialmente quali sono le cose essenziali, perché alla fine delle cose rimangono le cose essenziali, ma le cose essenziali le devi avere, da mangiare lo devi avere. Devi avere un tetto dove ripararti, questa gente che fa freddo non sa dove andare, insomma, sono delle robe veramente. Poi, per esempio, adesso io voglio dire un'altra cosa che non c'entra. Per esempio, quel disastro che è successo in Svizzera, no, con quei ragazzi, veramente è stata una cosa grave, ma sta una cosa gravissima. Allora, io ho due nipotini piccoli, ho avuto la grazia di averli. E mi sto rendendo conto ancora una volta, quando si è nonni, sai che come si è, no? Si ha più tempo. Quanto ci vuole per crescere un bambino? Quanto ci vuole? Anni ci vuole. E sti ragazzi poveretti, tutti giovani che sono morti così, ma vi rendete conto che disastro? E tutto perché anche loro avranno fatto i loro errori, perché insomma, però questi qua che non avevano, cioè, e allora. Voglio dire che questi nostri ragazzi, avendo molte cose, forse dimenticano di assicurarsi l'essenziale, perché a un certo punto quando arrivi tu devi scappare, devi andartene, no? Magari non si sa com'è successo, ma lì ha preso fuoco. D'altra parte, quando arriva il fuoco togli il respiro, no? Il fuoco quando si incendia non respiri più, cioè praticamente non capisci più niente, perché non ossigena neanche il cervello. E questi qui hanno trovato dei ragazzi che una che piangeva, ha detto una, non so, l'altra sera ha detto in televisione, che questa qui era bruciata, piangeva, e una ragazza che piangeva era tutta bruciata e sentiva solo la voce che gli era rimasta. È una roba drammatica, per dire. E qua anche, per esempio, per i giovani, dovrebbero i giovani, c'è sempre la storia, giovani, vecchi, ma comunque voglio dire, dobbiamo un po' aiutarci a vicenda, questo è il concetto. Questo qui, come ho detto all'inizio, mi fa molto piacere, perché poi mio figlio, che è Daniele, che lui è scrittore, è a Roma, ha voluto fare la postfazione, una postfazione, poi il redolo di copertina, e poi ha fatto l'editing, insomma, anche lui come nipote ha voluto collaborare, così che sono tre generazioni che sono tutte quante chiuse in questo libro qua. Bene.